te miente, ho già capito tutto, si legge nei tuoi occhi, si vede dal tuo viso, amore, amore che fu, amore che fu. Non guardare le mie mani,